All'House of Bach si tiene una cena molto speciale, dove si discute delle prossime iniziative e si parla con i nuovi amici che ci vengono a trovare. Da questa tavola passa tutta la buona energia della città. Benvenuti anche a voi alla cena del regino. E ragazzi, bentornati alla cena dei regini. Un applauso. www.bach.it, cliccate la cena dei regini. Questa sera con noi alla nostra tavola un ospite d'eccezione, Mad Simon, che ci ha portato due suoi pezzi che manderemo, il primo subito e l'altro dopo. Buonasera. E iniziamo con ad ascoltarlo in Mad Simon in Into the Wild Style. Mad Simon Calafro. Yo. Scorro un brivido sul braccio mentre faccio strada a piedi. Alzo sul cappuccio per rifugio e stringo forte le redini dello zaino che copre le spalle. Oscura da viandante, andatura da maratoneta. Scaccio via una pietra dall'asfalto con un passo, resto di sasso, la seguo con lo sguardo finché ruota. Borraccia vuota con un gancio alla cintura e freddo metallo ghiaccio che moltiplica l'arsura. La salita è dura, schiacciato dal peso che porto. Ogni giuntura è sotto sforzo a rischio di frattura, ma la natura cura e la ferita nell'orgoglio che non si sutura e cerca di sfortuna fuori dal centro. Non c'è buono né cattivo tempo, tutta questione di equipaggiamento. Lascio il segno, pioggia d'argento sulla giacca a vento. Basta uno schizzo a dare inizio al mio disegno. Bandana sulla bocca mentre il vento soffia contro. La mia banda suona in cuffia e tappo sbuffa se ne ho fatto per un altro. Mi consola il tran tran, mi disgusta, niente vino nella busta. La mia fuga c'ha la firma giusta, alla marca delle scarpe non ci tengo. Tengo i marker nelle scarpe se mi prendono, non un brand. Il mio brand è di oltre un secolo, indelebile ed etereo. Salutare come un aerosol, incomprensibile ai profani. Il mio stile è un origami di parole, macchie di colore col mio nome. E sulle mani graffie ed il dolore. 7 ore sotto il sole, sfondo in un cotone, gocce di sudore. Sulla linea di confine, pronta al contrasto in zone d'ombra. Ogni bagliore prende forma da una bomba. Viaggio armata ad ogni gemmo del sol. We don't need no education, not a brick in the wall. E siamo tornati con in compagnia di Mad Simon. Ciao Buck. Allora, che si dice? Tutto bene, tutto bene. Stiamo cenando e... però ancora siamo fermi al primo. È giusto, perché noi registriamo i blocchi tra una porta e l'altra. Ma è giusto, adesso, perché sennò se fossimo arrivati già alla fine non staremmo qui a parlare. No, ma poi io mi conosco. Ti mando ormai un indispensabile per evitare l'abbiocco. Verso la fase finale della classifica che loro conoscono benissimo. Oggi ci parli un po' di te, presentati. Vabbè, io sono Simone, Mad Simon in arte, faccio parte di un gruppo che si chiama Calafro, con cui ho pubblicato l'ultimo disco nel 2011, Resistenza Sonora. E adesso stiamo tutti lavorando a progetti solisti, il mio particolare, quello di cui vi parlo stasera qui, ed è un progetto che vede coinvolti anche i Syndrome, una band power funk di Reggio. Ci siamo conosciuti lavorativamente al Real Fat Studio di Maurizio Albanese e abbiamo deciso di collaborare e di creare qualcosa di nuovo insieme. Quindi collaborazione giovane. Il sì. Disco è in fase di realizzazione. Esatto, sì. Il 2014. Sì. uscirà nel 2014. Adesso abbiamo trovato, dopo un po' di lavoro, la nostra dimensione. Mm-hmm. Nel senso che abbiamo dovuto trovare la sintonia, riuscire a muoverci insieme in questa commissione di genere, in questa nuova avventura, perché è molto, diciamo che è proprio un disco Mad Simon più di Sindrome. Sì, sì, sì, sì. Un connubio che avete creato. Sì, io ho sempre lavorato nell'ambito rap e reggae. Okay. Però diciamo che nasco comunque da una cultura musicale black. Ho studiato un po' il sax, quindi comunque partendo dal jazz, dal blues, e avevo voglia di riuscire a dare un vero e proprio animo black ai miei brani, e con loro sono riuscito a trovare sintonia per questo, perché insieme arrangiamo i brani che magari ho già scritto o che sto scrivendo adesso proprio con loro, e stanno prendendo totalmente altra forma. Già abbiamo voluto provare, al contrario di come solitamente si fa, direttamente affrontando i live insieme, e la risposta è venuta direttamente al pubblico, perché comunque sai, nel rap o anche nelle dancehall sei solo tu con il DJ alla console, invece avere una band, riuscire a dare più spinta, insomma un'anima totalmente diversa, almeno io mi sento così e lo noto anche nel pubblico. Beh, che viene ai miei concerti. Loro sono davvero molto giovani, ma hanno tanta voglia di studiare e li accompagna tanto talento, perché il talento senza la tenacia nello studio non porta a niente. Quindi è un'idea di unire queste commissioni e fanno un disco molto particolare. Sì, il disco ha un viaggio dal rap allo swing, dal funk al rock, anche alcune cose, quindi comunque tocca tutto. La nascita di un pezzo, dei tuoi pezzi in generale, ha una, cioè specie adesso che ti trovi a collaborare con i Sindrome, ha una genesi particolare? Viene... Guarda, io solitamente ero abituato a lavorare con produttori che mi davano un loop di base, io ci scrivevo su e poi insieme arrangiavamo la parte del ritornello, diversi stacchi o variazioni all'interno delle strofe. Adesso è un po' diverso, diciamo che parto comunque io da un'impostazione di testo e di melodie che ho in testa, e poi con loro riusciamo a sviluppare il brano vero e proprio, brano, esatto, sì, l'arrangiamento totale. La versatilità sta nel fatto che tu devi essere capace di variare quello che già avevi in testa. Certo. E non sempre è semplice se sei un po' bloccato musicalmente e anche a volte un po' presuntuoso. Che poi scrivere un brano non è come la poesia, che ha una metrica, tu devi seguire, diciamo, il flusso della musica. Cioè, beh, io il rap lo considero la poesia moderna, il rap è basato sostanzialmente su metrica e flow. Mm-hmm. Quindi comunque sai, è particolare riuscire a variare quello. La notte di San Lorenzo, che è il singolo che abbiamo fatto uscire in anteprima perché ci tenevo a farlo uscire prima dell'estate, è proprio questo, nato come un pezzo totalmente rap, però riarrangiato in una chiave molto soul. La metrica del brano rap iniziale è stata mantenuta, ma con un flow molto meno serrato e più liscio. Sì, sì, sì, sì, più altalenante, viaggia sul brano. Questo genere, abbiamo detto prima della registrazione, è molto aperto a tutti, forse anche troppo. Non so quanto troppo, perché comunque devi vedere in che ottica lo ascolti. Innanzitutto il testo è un testo che parla di questo viaggio che io certo ero da solo in macchina, era tarda notte, e pensavo al fatto che sì, me l'ho divertito a fare il concerto, avevo preso belle soddisfazioni, ma poi dopo un'ora mi dovevo svegliare per andare a lavorare, perché con l'arte non si mangia. La doppia com'è. Vita, come esatto. Supereroe alla fine. E quindi è nato così, è un brano abbastanza malinconico, ma con una vena di speranza. È comunque una serenata alla musica. E qualcuno mi ha accusato di aver fatto qualcosa di pop, ma a parte che pop non lo ritengo strettamente un insulto, perché pop è qualcosa di popolare, qualcosa di accessibile a tutti. Chiaro. Ma lo stesso Molière faceva critiche al governo dell'epoca, al sovrano, ma erano cose stesse che gli commissionava il sovrano, quindi comunque devi riuscire a trovare la chiave per leggere le cose, ognuno le avverte a modo suo. Se tu hai la critica e la volontà di leggerlo con una chiave pop e non andare oltre, rimani fermo lì. Per me è una cosa che questo brano mi rappresenta realmente, perché c'è tutto quello che voglio mettere nella musica. C'è tanta musica a livello strumentale, c'è tanto di mio che ho scritto anche dalla parte musicale. Il fatto di aver ripreso il sax che avevo lasciato da 8 anni, sì, dopo la perdita di mia madre avevo deciso di smettere di studiare sax. Infatti non sono un vero e proprio sassofonista, mi diverto a scrivere qualcosa e adesso ci sto prendendo un po' più la mano. Il fatto di riuscire a non essere per forza veloce, serrato, come ho detto prima, per riuscire a coinvolgere la gente, ma dare un'anima, semplicemente quella, è musicale. Che poi pop nell'ambiente è quasi un insulto, perché c'è molta voglia di un'identità strettamente legata alla strada, all'hip hop, cioè incuriosisce questo discorso. Sì, se vogliamo parlare nell'ambiente rap, è quello, perdi la street credibility, come si suol dire. Dal punto di vista comunque totalmente dei generi musicali, essere pop a livello di insulto vorrebbe dire essere sceso a compromessi commerciali di un'etichetta per poter vendere. Però io non canto amore né dico stronzate, nemmeno penso. Credo anzi di aver fatto una canzone bella, come tante, non mi paragono, ma come tante che comunque sono passate nella storia della musica, che non per forza toccassero temi sociali o culturali molto alti, ma che comunque avevano una chiave di lettura sia a livello musicale che a livello di testo, che poteva aprire diverse porte. La tua esperienza è di autoproduzione? Sì. In questo momento sì, diciamo che Maurizio Albanese con Real Fat Studio sta investendo su questi progetti, sia quello dei Syndrome che quello mio, che in questo momento, in questa fase, è appunto con i Syndrome. Non ho proposto il lavoro a un'etichetta. Quanto meglio è? Ma meglio, perché comunque siamo tutti sulla stessa linea. Se qualcuno vorrà abbracciare questo progetto, abbraccerà un progetto finito. Non lo abbraccerà sicuramente in fase di costruzione, perché nessuno potrà avere da ridire su quello che andremo a fare e che stiamo già facendo. Perché se appunto l'idea è quello di creare qualcosa per metterla sul mercato, non è quello che mi interessa. A me interessa di dare gli spazi che mi merito. Poi se devo crescere per avere più spazio, lo farò, lo continuerò a fare sicuramente, ma non mi aspetto di sicuro di trovare scorciatoie scendendo a compromessi per diversi discorsi. Preferisco una critica che sia a livello strettamente musicale, non dal punto di vista del fatto che ma questo brano non si vende, questo disco non si vende. Se uno mi dice guarda, però la melodia non è buona, o quel brano io l'avrei arrangiato diversamente, con piacere ascolto queste considerazioni, ma diversamente non le ritengo considerabili. Ma chiede di fare qualcosa di tuo e di proporlo come un prodotto finito tuo, penso che sia impareggiabile come soddisfazione, come ritorno personale, insomma. Quindi certo. I costi di un album di questo genere sono ancora notevoli? C'è ancora molta ricerca, immagino? La fortuna che ho io, se metto a confronto il primo demo che ho fatto nel 2010, che si chiama Schizophrenic, che comunque ho fatto tutto quanto nel mio home studio, e ha avuto costo zero, a parte l'attrezzatura che sono riuscito a ripagarmi con i concerti negli anni. Il lavoro di adesso è un lavoro con uno studio professionale che, se non avessi, verrebbe a costare a disco finito intorno ai 10.000 euro, penso. Sì, perché comunque registrare una batteria in maniera particolare, registrare, avere gli amplificatori giusti per tirare basso, non è come produrre elettronicamente e poi registrarci sulla voce, là di basso un microfono, è un buon produttore. Qui stai lì ore e ore, in più devi pagare un fonico che giornalmente, chiaro, se è di livello, almeno quelle 200 euro al giorno se le va a prendere. Quindi comunque a lungo andare, poi tra mix, mastering e roba varia, 10.000 euro se ne vanno. Poi mettici che ci devi aggiungere l'ufficio stampa, ci devi aggiungere i videoclip, eccetera, non diventa più uno scherzo, è un vero e proprio lavoro. Per questo difficilmente riesce a fare musica a alto livello oggi come oggi. Nel particolare Reggio Calabria, la situazione artistica nel tuo settore, nel tuo genere, come la definiresti? Cioè, come la tratteggeresti, un pensiero sulla situazione? Se dobbiamo parlare intorno, se dobbiamo parlare strettamente del genere rap, vedo tanti ragazzini comunque molto talentuosi, cercano di ritagliarsi uno spazio. Reggio è una città difficile, Reggio vede spesso nei limiti caratteriali personali anche il limite della città stessa, che non riesce a crescere. Ritengo che comunque, come in tutta Italia, perché Reggio poi alla fine va comunque calata in una dimensione italiana che non esula da queste dinamiche, vede uno scenario che è strettamente legato a chi è intrelazzato con la politica, perché comunque qualsiasi cosa bella che puoi proporre, se non hai l'aggancio giusto, non va da nessuna parte. Allora vedi, è per questo che vedi sempre gli stessi voti, eccetera. Io ho la fortuna di conoscere tanti gruppi musicali talentuosi, tante realtà culturali che vanno dal teatro all'arte, alla scultura, eccetera, che però si trovano le porte sbarrate perché non hanno il politico di turno che le appoggia, eccetera. Gli spazi sono sempre di meno. Se consideriamo che un teatro Cilea a Reggio Calabria quest'anno non ha avuto una stagione, poi magari ti ritrovi il Teatro Zanotti Bianco, che è l'unica residenza teatrale a Reggio Calabria, riconosciuta dalla regione perché ha vinto un bando, ristretta nei suoi 250 posti scarsi, con una stagione studiata ad alto livello, che non può riuscire a accogliere molta più gente, o realtà come magari Spazio Teatro o tante altre che propongono prodotti validi, non avere la visibilità che meritano fa male. Io non ritengo di essere il primo nella lista e dover far parte di ogni evento, eccetera, però ritengo anche giusto che comunque, se non ci sono io, c'è qualcun altro alla Reggio che l'ha meritato. Mi ricordo l'anno scorso, quest'anno non so neanche se ci sarà una stagione estiva a Reggio, ma l'anno scorso ricordo semplicemente un evento organizzato all'Arena dello Stretto di una cover band, che non so neanche quanto abbiano pagato, però dico io, con tutti gli artisti, cantautori inediti di Reggio Calabria che, per non aver trovato spazio qui, sono dovuti andare fuori, perché dove creare una situazione lì? Sì, perché non coinvolgere chi qui, che magari avremmo fatto tutti gratis, cioè tu dici faccio un evento con i cantautori reggini all'Arena dello Stretto a Ferragosto, ma è probabile che tutti i cantautori reggini, trovandosi un service almeno pagato, quello è, si sarebbero esibiti. No, vabbè, perché sai, è successo anche che mi hanno chiamato per suonare allo stadio durante la partita Regina Torino, quindi evento clou della stagione di Serie B, eccetera. dicendo venite a suonare gratis, portatevi pure il service. E poi che poi scendiamo in campo anche noi, se riusciamo a segnare smontiamo la stagione. Ma se riesci a fare anche due parate. Esatto, quindi okay. non sto parlando di cose assurde. Quindi magari a Ferragosto tu dici invito tutti gli artisti della città e creo un villaggio in quella giornata in cui tutti quanti si aspettano, proprio e tutti ti vengano gratis. Fantastico, sarebbe fantastico. Però invece si ritorna al fatto di dover chiamare quello da fuori, perché poi noi siamo malati di sterofilia, chiamare quello da fuori, regalargli una barca di soldi, perché comunque se lui non ti chiede una barca di soldi tu non lo consideri all'alto livello, non avendo comunque ascoltato, visto quello che ha fatto, ma questo ci vuol dire. La e tanti quindi si ritrovano a doversi sbattere in una situazione magari quella dei piccoli pub, dei locali che comunque ormai con la situazione economica di adesso non riescono più a pagare un gruppo per quanto dovrebbe. Permettimi un inciso drammatico, almeno a livello personale, il pub art sta chiudendo, cioè una cosa, lo storico pub art sta ormai alla... cioè sta smantellando. Questa notizia mi ha sconvolto, comunque la sapevo da un po' di tempo, perché avevano chiesto a qualche mio amico di prenderlo in gestione. Sarebbe bello prenderlo in gestione, ma anche lì poi avrai dei limiti burocratici, perché comunque è un locale non insonorizzato, sì, assolutamente, allora eccetera, allora, tutto quello che hai fatto anni fa, perché realmente non esistevano locali. Infatti, perché comunque il pub art è storico di 20-15 anni fa, comunque gli anni 90 si svolgevano lì. Quello che hai fatto allora non lo puoi fare più adesso. Andato. Ma poi mi sembra anche che sia leggermente dislocato rispetto a quel, quello chiami il ring di 6. Ma il ring si è creato adesso, cioè su una via trovi 5 locali e esatto, ormai la passeggiata è diventata entrare in uno, uscire, entrare in uno, uscire, entrare in uno, uscire e poi te ne vai a casa. Penso che sia anche stato quello a determinare alla fine. Sì, ma sai come sono le dinamiche regine, poi quello dura 6 mesi, se va bene, poi se non chiude resta vuoto, si deve inventare qualche altra cosa, perché se poi ognuno va a copiare la cosa dell'altro, alla fine la gente si stanca e va da quello nuovo che ha. Cosa normale. E beh, anche questo è il raggio, ragazzi. Adesso salutiamo Matt Simon. Grazie Buck per questa bella chiacchierata. Assolutamente, resterà ancora qua perché dobbiamo finire la cena. E ci ascoltiamo questa dal suo prossimo lavoro, Matt Simon and Syndrome Band, La notte di San Lorenzo. Mani sul volante, niente atlante, ho percorso solo uno strano senso di rimorso. Passo due volte dallo stesso posto, riconosco lo stop e le diana, pacco rosso sul cruscotto, solo cenere nell'aria, solo fumo sul mio viso, luce d'ambra che si alterna con il buio. Penso a poco prima sorridevo falsamente, ma la mente gioca brutti scherzi e mentirsi non serve. Mentre la vista si appanna, provo a accenderne un'altra e spengo l'auto, sono abbastanza in alto. Porto lo sguardo oltre verso l'orizzonte, spero che dal lato opposto ci sia un altro che si senta come me e sogni all'infinito. Puntando il dito, se una stella mi sfiorasse adesso, sentirei il prurito di chi veste panni che non gli appartengono, in testa desideri che non ho mai espresso e non ho mai esaudito. Perché si sente vivo mentre tutto intorno piano piano muore. Una una goccia di colore sul mio viso ed una specie di sorriso fisso. Le mie mani stringono forte l'aria, forse l'anima dovrei ascoltarla e non provare a prenderla. Fuggi via e portami con te sulla mia isola, dove la musica segna la direzione e non la bussola. Il trucco è rigare diritto, ma dall'ultimo sorso ne esco sempre sconfitto. E la testa gira su una monetina, sfila il film della mia vita senza titolo sopra la copertina e conta poco. Registro prima attore, dovrei esserne l'autore, senza timore di cambiare trama e di cambiare ancora. Ma questa notte è solo un altro nodo in gola, tacchi al sole già l'aurora, tra un'ora si lavora. Grazie alla Giana dei Regini, vi è piaciuto il pezzo? Secondo me sì, ma comunque veniteci a trovare su www.ibac.it e cliccate la Giana dei Regini per contattarci, ascoltare le precedenti puntate e ascoltare anche il podcast di questo, ovviamente. Adesso parliamo delle cose fatte, delle cose da fare all'Aus. In particolare, ragazzi, l'agosto sarà il nostro agosto, perché come mese scorso luglio sarà il nostro luglio. No, lascia stare, luglio è stato agosto. Luglio ha avuto qualche problema, in particolare per la ricerca di location. Ad agosto, ragazzi, visitate il sito dove troverete nel dettaglio tutte le date, che comunque saranno 4, 11, 18 e 25, praticamente ogni domenica un live diverso a partire da quello di Camelot, con poi varie Mystery Night e live a tema dei più svariati. Poi nel dettaglio lo mettiamo tutto sul sito. Dita incrociate, addio piacendo, ce la faremo. Continua a ricercare il location, quindi chi ha una casa, un terreno, tuo zio che ha il giardino, tua nonna che ha la casetta in campagna e non usa mai, mi contatti. Andiamo a vedere questa location possibile e vediamo se è possibile organizzare una serata lì, e quindi la possibilità di partecipare anche a chi è a casa. In più, tra l'altro, partecipare attivamente, perché riprende il gioco da tavolo dell'Ars, quindi questa possibilità di vedersi ogni settimana all'Aus intorno a un tavolo e giocare all'Ars in versione da tavolo stavolta, perché abbiamo tante nuove avventure da sperimentare, già scritte e da mettere sul sito, che aspettano solo di essere giocate. Ragazzi, dico, partecipate. Partecipate numerosi, no, perché comunque deve essere un numero ristretto di giocatori, però comunque mi contattate e organizziamo le varie sessioni. La prossima volta masterò io. la prossima volta masterà addirittura Andrea, ma non vi preoccupate perché comunque sarà divertente malgrado tutto. Vi odio. Andrea che è ormai maggiorenne, quindi lo potete picchiare tranquillamente. Ottimo. No. Invece prima ci si faceva problemi. No, non ci facevamo problemi, però. Però non potevamo dirlo alla radio adesso. Non potevamo dirlo alla radio perché è minorenne. Scherzi a parte, dai. E quindi la contattarmi e venite a giocare. Quindi ci stiamo intorno a un tavolo, ognuno interpreta il suo personaggio e si scrive così assieme una storia. Cosa c'è bisogno di sapere per giocare? Assolutamente nulla. Perché è solo il manualetto base, un flyer di una pagina, quindi anche tu che non hai mai avuto esperienza di gioco da tavolo, che non hai mai fatto gioco di ruolo, puoi venire e sottoporti a questo esperimento, anche un po' di vita, diciamo così, in modo anche per scoprirsi. In più, da questa settimana iniziamo a registrare i nuovi video. Nuovi video, una sorpresa graditissima, il ritorno di un personaggio fantastico, che sarà il protagonista del prossimo video. Non vi svegliamo niente. Pare che non lo sappiamo neanche noi, invece io lo so. Non sto a dire fare. Pensa, io non lo so davvero. Ma è il misterioso. Te l'ho detto prima. No, invece c'è. Ecco, purtroppo l'ho dimenticato, però. Prepariamo cose belle. A te vi carichi? Altro da dire? Tenetevi in contatto con noi tramite il sito e controllate se ci sono nuovi video. Nuovi video, nuove date e via dicendo. Ricordate di consigliare nuovi modi per torturarmi? Certo, ma possono anche decidere di salvarti, di mettersi dalla tua parte. Sì, un'altra volta. Qual altra volta? Non mi ricordo, che è successo? Ah, quando ho detto che se lo facevano venivano torturati a loro volta. Vabbè, ma quelli sono cose scritte in piccolo, cioè dettagli ragazzi, dettagli. Passiamo all'angolo delle notizie, ma prima i Fresh Body Shop con Wizard. See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when he beats my drum. Trader made my powers amazing. There's a mystical drawing somewhere in my notebook. Something about love, something higher than. E ragazzi della cena dei regini, bentornati, visitate www.tbac.it, cliccate la cena dei regini per avere tutte le informazioni, contattarci, ascoltare puntate precedenti e via dicendo, e sul sito tbac.it tutte le date dei prossimi eventi che ho organizzato, tra cui per inciso il prossimo LAN Party che ci aspetta questa settimana, grande evento a cui ci stiamo allenando notte e giorno giocando a Sovrabrati. E adesso passiamo all'angolo delle notizie. Le notizie ovviamente questa settimana sono state, diciamo, sovrastate dall'arrivo del Royal Baby. E l'arrivo del Royal Baby, questo bambino, si sa che è un maschio, altri 9 mesi per sapere il nome perché è tutto sotto secret. Ma soprattutto è stato singolare per me andare su Twitter e vedere che nella stessa serata c'era hype uguale praticamente per l'arrivo del Royal Baby e per l'arrivo di Ubuntu Edge, questo smartphone totalmente made in Ubuntu, quindi con un design abbastanza accattivante, è comunque un sistema operativo basato direttamente su Linux Ubuntu, che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Dovrebbe, perché cosa particolare, hanno avviato un progetto di crowdfunding per cui il progetto vedrà effettivamente la luce se si raccoglieranno 32 milioni di dollari. Adesso sembra 32 milioni di dollari, e invece nella prima serata già 1 milione se lo sono messi da parte, quindi non è affatto impossibile che questa cosa accada. La cosa particolare è che già il sistema, il cellulare, oltre ad essere carino esteticamente, ha un'opzione dual boot per essere utilizzato sia con un sistema preinstallato Ubuntu sia con un sistema preinstallato Android, quindi la possibilità comunque di variare il sistema operativo. Ma ragazzi, qua siete tutti smartphoneizzati, tablet e via dicendo, quindi che ve lo dico a fare? No, ma non vedo l'ora che arrivi questo sistema, sperando che sia molto più leggero di Android, che è diventato pesantissimo. Sì. Cioè, se non hai un telefonino comunque con un processore molto veloce, molta RAM soprattutto, ti si impalla con me. Cioè, alla seconda applicazione che apri comincia a crashare tutto. No, ma la cosa veramente secondo me sconveniente di Android è che i cellulari vecchi non possono montare le versioni nuove, cosa che secondo me è drammatica, perché è come se non ci fosse una retrocompatibilità, diciamo, al contrario. Quindi avere un sistema operativo unico che però alla fine è legato a un tempo preciso, a un'era, diciamo, precisa a livello di cellulari terminali, è veramente riduttivo. Non so se poi vorranno fare qualche innovazione da questo punto di vista. Ubuntu invece si propone su un cellulare di media alta fascia, però comunque dovrebbe essere un sistema che alla lunga si aggiorna, e quindi un progetto unico dovrebbe restare abbastanza coi piedi per terra. Comunque Ubuntu, se non richiede grosse caratteristiche tecniche come succede magari nei PC, anche chi ha un telefonino oggi di una fascia media avrà la possibilità comunque di avere un sistema che nel tempo potrà evolversi. Puoi installare Ubuntu, puoi installare anche l'app Ubuntu per Android, che praticamente sostituisce il launcher classico di Android con quello di Ubuntu, e quindi hai una specie di ibrido Ubuntu Android. Poi soprattutto speriamo che non abbia tutti quei blocchi che vanno aggirati con varie tecniche, perché sennò puoi usare metà telefonino. Che sono delle cose incredibili. Ma essendo un sistema open source non penso che mettano blocchi o robe simili. Ma soprattutto ragazzi, a volte invece noi ne sappiamo qualcosa, ci sono bei colpi di fortuna, soprattutto grazie alla tecnologia. Un cittadino statunitense è diventato l'uomo più ricco del mondo per circa una serata, e basta. Ha guadagnato un patrimonio superiore 1000 volte al prodotto intero lordo dell'intero pianeta, quindi 92 quadrilioni di dollari, accreditato sul suo conto PayPal, che però aveva sbagliato, e quindi dopo la serata se l'è visti scalati ai quattrini suoi classici. È un 56enne americano che ha vissuto questa esperienza nella sua vita. Eccolo, non ho capito in che modo li ha persi 92 miliardi di dollari. No, in che modo li ha guadagnati da un errore di accredito di PayPal, che gli ha accreditato tutta questa valanga di denari. E poi lui si chiama Chris Reynolds, mitico, sì. E poi pensi, nel giro di una serata, diventare l'uomo più ricco del mondo e poi vederli. Cioè, bello, alle 23.59 sono ricco, alle 24 sono povero. Sono di nuovo. Però guarda che cifra, 92 biliardi, 233 mila milioni, no, mila miliardi, 120 mila milioni, 368 milioni di miliardi. E poi i suoi 800 dollari. Poi i suoi 800 dollari. Che sono la cifra effettiva che aveva prima. Immagini, stai facendo un acquisto su eBay tipo per 20 euro, sì. Aspetta che guardo sul mio conto PayPal quanto c'ho. Soltanto 92 triliardi di milioni. La cosa bella è che a lui è successa una cosa del genere, perché quella sera stava controllando il proprio conto, ha visto questa cosa, infatti PayPal l'ha anche ringraziato, perché comunque non ha sporto denuncia, non ha fatto reclami su questo. Su questo evento, comunque una cosa particolare, esperienze della vita. Ma io mi prenotavo una Lamborghini così. Paga un minuto. Tanto no, paga, cioè, scusa, non una Lamborghini, non una macchina Lamborghini, un'azienda Lamborghini. Ma la compravo. Lo stabilimento Madrid. Sì. Bello. E tu con questa cifra cosa avresti fatto, Andrea? Devo dirle no, lascia stare. Vedi, vado a dargli parole subito, no, me ne devo pentire. No. No, la prossima volta gli scriviamo i testi e lui se li legge, tranquillo. No. Facciamo la prossima. Ma i testi di chi? Tuoi. Delle zappe. Però sarebbe stato bello fare qualcosa di simpatico con tutta questa cifra. Non lo so. Come per esempio comprarsi un pianeta. Una stella, però, era fattibile. No, una stella costa 3.000 euro. Ah, quindi devo comprare anche più di uno. Una piccola via latte. E poi, ragazzi, parlando di imprevisti, è stato chiesto ai passeggeri di un aeroporto che erano in procinto di partire, sarebbero scambiato il loro volo con un'altra destinazione totalmente casuale, schiacciando un tasto rosso, che però hanno accettato. Questa è un'operazione di marketing molto particolare. In pratica tu arrivi all'aeroporto pronto a prendere il tuo volo per Punta Raisi, e invece avevi la possibilità di schiacciare questo tasto rosso e ritrovarti da un'altra parte, quindi gente che è partita verso Cipro, verso il Portogallo, verso il Laos addirittura. Questo gli è andato veramente male. Cioè, io me lo immagino, arriva a Reggio, invece di partire per andare il tuo volo normale, non so, in Spagna, premi il pulsante e mi ritrovo magari a Lamezia. Reggio Lamezia facendo scalo a Roma. Hai visto? Beh, sono cose che succedono. Però almeno resti nella patria, sì, certo. In Laos. Magari uno che gli piaceva pure. Io non so manco dove è il Laos. Parti verso Roma e ti ritrovi una destinazione a caso, il Kazakistan, visto che loro ci hanno mandato quella pizza adesso. Può essere tutto nella vita. Ma ragazzi, dove vorreste essere se non qua? Qua. Anche Andrea. Anche Andrea. Però glielo scriviamo nella prossima. No, adesso musica con Yacht Fiction e Manner of Traveling. E ragazzi della Cena dei Regini, bentornati, www.ilbac.it, cliccate la Cena dei Regini per saperne di più, per venirci a trovare, per scrivermi, soprattutto per scrivere Bacco, perché ancora non m'hai invitato alla cena dei regini, io che ho fatto questa cosa nella vita, dimmi cosa hai fatto interessante per essere invitato e lo sarai. Ma soprattutto adesso passiamo alla classifica delle 10 fobie più strane. Stavolta non secondo gli americani, sottolineiamo questo. Guarda, restiamo sull'internet. No, sarà triste, no. Sarà quasi. Paura degli hamburger. Numero 1, venustrafobia, cioè paura delle belle donne. E qua. Già. Cominciamo male. Cosa, Buck? In una società ormai piegata al volere dell'aspetto, chi soffre di questa fobia non deve avere di certo una vita facile. Questa fobia reca molti problemi a chi ne soffre, infatti colui che ne soffre, se si trova in presenza di una bella donna, accusa tachicardia, anche se passeggera, tremolini involontari, ansia e sudorazione eccessiva. Colpisce solamente il sesso maschile, anche questa è una cosa. Immagino che per le donne ci sarà una, ma c'è la, sai che non l'ho trovato, controparte maschile, martetrafobia. Sarà molto interessante, però paura delle belle donne. Guarda, io non so se ho paura delle belle donne, però la reazione che ho sicuramente è un poco diversa. Non hai, cioè il sangue non è che si allontana dal cuore. Si allontana dal cuore. Sì, ma andando in un posto preciso. Sì. Siete solidi, maschilisti, per fortuna. No, no. È una reazione naturale. Certo. Quante sono? Cosa? Cioè quante sono le cose impossibili? 10. E siamo ancora al numero 1. Fobia number 9. La numero 2, nomofobia. Paura di rimanere sconnessi. Sembra una presa in giro, ma purtroppo esiste davvero. In poche parole, chi soffre questa fobia ha una paura quasi patologica di restare scollegato al mondo della telefonia mobile, quindi una cosa di recente, di recente scoperta. Cose che accadono, ad esempio, quando si rimane senza credito, senza batteria nel cellulare, quando si è fuori casa, perdere i contatti della rubrica, oppure avere il cellulare non funzionante per un qualche motivo. Quindi la paura di non poter essere rintracciati dal lavoro e familiari in caso di una sventura non prevista. Quindi molte delle persone che soffrono di questa fobia non spengono mai il cellulare. Lo stato ansioso che provoca il rimanere privi di contatto tramite cellulare è spesso paragonato allo stato pre-nozze. E qui io aggiungo una parentesi. Perché lo stato pre-nozze? Cioè, se già sei ansioso nel pre-nozze, vuol dire che c'è qualcosa che non va nella tua vita. Allora, io immagino che lo stato pre-nozze sia uno di quei momenti più, come dire, incasinati alla fine. Certo, certo. Nell'organizzazione delle cose. Perché comunque ci sono un sacco di cose da fare. Io lo sto vivendo adesso, non mi sento tanto nervoso, diciamo, in questo momento. Non ho questa fobia di rimanere sconnesso, anzi. Quindi, quando riesco a essere sconnesso sono anche un po' abbastanza contento, devo dire. Però no, sicuramente il fatto di essere sconnesso, cioè di essere irraggiungibile nella preparazione di un matrimonio, sicuramente porta un po' di stress, perché c'è da rimanere in contatto con tante persone, vedere se le cose vanno bene, vanno male. E questo sì, ma il fatto è che lui paragona la nomofobia allo stato pre-nozze, cioè sono due cose differenti. Ah, proprio lo paragona. Lo paragona allo stato pre-nozze. Lo stato pre-nozze è l'ansia, la nomofobia è l'ansia in maniera equivalente. Sembra eccessivo, però guarda, ora come ora, vedendo un po' come vanno le cose, la gente sempre con i cellulari, anche mentre si registra una trasmissione radio, per esempio. Ecco. Non è un cellulare, è un tablet. È un tablet, per esempio. E sto litigando con la mia ragazza sul riscaldamento globale. Ecco, rimanere sconnessi può provocare danni, ragazzi, non rimanete sconnessi, mi raccomando. Infatti. Perché sennò poi diventate come Andrea. Rimanete connessi, non rovinate il mestiere di fare. Ma il fatto, secondo me, la cosa più compromettente di tutte queste è, sinceramente, cioè la cosa magari preoccupante è perdere i contatti della rubrica, cioè, perché rimanere senza credito, vabbè, è una cosa temporanea, rimanere senza batteria, vabbè. Perdere i contatti capisco che possa dare un po' di delusione. Specialmente con a chi, diciamo, chi lavora col telefono. Sarà un fastidio incredibile perdere il numero dei clienti, per quanto noi la tecnologia ci viene incontro, quindi ci sono mille modi per salvare la rubrica, poi certo. Con un account Google e Android te lo salvi online. Vedi quando, allora... quando la tua privacy è ignorata, però no, ma Google mica li utilizza quei contatti, no, assolutamente no. Ma sono una scheda. Lui appena li metti là, già ti dice, ah, ma sai, questo è collegato, c'ha Android, c'ha il telefono, ti dice che telefono c'ha, che operatore c'ha, a quanti social network è iscritto, quali sono le sue email. Però non è che li dai in giro. Lo guardi solo tu. Certo, è una cosa molto. No, no, è una cosa così. Tranne Google del Milan. Numero 3, cardiofobia. Qua già andiamo. Paura del cuore. Cioè chi ha paura del proprio cuore. Chi soffre, cioè, uno si guarda il petto. È il momento, abbattiamolo. Abbattiamolo adesso che stai soffrendo. Oh no, un cuore, taglielo. Ok, vai. Peggio, perché tende a collegare ogni singolo dolore o fastidio al cuore, quindi temendo in modo ossessivo che questo sia sintomo di infarto o simili. Paura più che altro che il cuore vada a quel paese, posso dire. Questo immagino magari tu, cioè, è portato ad avere questa fobia chi mai ha avuto un parente stretto, un genitore magari, o comunque uno dei parenti più stretti, con un problema cardiaco. Quindi il fatto di avere qualcosa di congenito, non è certo. Forse è proprio una cosa anche, sì, magari avere avuto un'esperienza precedente analoga, sì. Però qua dice che è una paura a sé stante. Quindi l'unica cosa. Qualcosa che scatena la paura ci deve essere. Io vedi, immagino qualcosa del genere. L'unica cosa che riesce a calmarli è fare delle accurate analisi mediche, che comunque li. Ed è notevole, perché comunque è una specie di ipocondria, però sì, dedicata, molto dedicata, incredibile. E qua numero 4, terribile per me, io ho paura di questa paura, deipnofobia, paura delle chiacchiere dopo cena. Ragazzi, chiacchiere dopo cena, se avessimo questa cosa io sarei rovinato, perché non si dovrebbe fare la cena del regina. La cena del regina dovrebbe diventare l'antipasto del regina. La panacea del regina. Take che away. Dovremmo fare prima il take away del regina. L'ora dell'estate del regina. Questa fobia, tra l'altro, ovviamente è rara, molto rara, è difficile da capirla perfettamente. È proprio una paura senza una spiegazione logica apparente dai discorsi dopo cena. Ma come se fosse. E qua, numero 5, su questa qualcuno si ritroverà. Specie se ci ha sposato, invece. Singenesofobia, la paura dei parenti. Qua ho sentito già qualcuno dirà, ah, mia suocera, effettivamente. E non sono io. E invece no. Questa assurda fobia completa il quadretto, perché comunque ha paura di chi ha questa fobia, ha paura di qualunque parente, quindi padre, madre, sorelle, zie, nonni, anche cugini di secondo grado e via dicendo. Ansia di restare in contatto stretto con queste persone, anche solo a pensare che loro sono nelle vicinanze, quindi proprio una cosa. Ed è difficile chiaramente coordinarsi con nella vita di tutti i giorni, certo. Con questa, queste. Alla fine sarà un problema nel rapportarsi con queste persone, quindi una paura magari ad affrontare contatto diretto, persone magari non riesce. Ma è impossibile effettivamente, perché se hai paura di queste persone comunque è reale, certo. Va, cosa spiegato. Numero 6, acatartofobia, avversione per lo sporco della polvere, qua. Comunque penso che sia anche avversione per lo sporco o per la polvere. Allora, effettivamente... E qua è anche utile, da un certo punto di vista, perché comunque... Ma proprio paura diventa questa. Fobia. Sì, effettivamente, cioè, persone maniache della pulizia ce ne sono. Ne conosco, tanto. Però proprio è quella paura... È una forma lieve di acatartofobia, può essere. No, gente che scappa dalla polvere non l'ho mai vista. La combatte. Gente che la combatte, quindi non è una fobia, dai, ok. Non conosco gente a catarone fobica. Numero 7, qua ragazzi. Amaxofobia. Paura di guidare. Allora io dico, su questa paura. Paura di guidare, cioè. E allora questa è una cosa che può capitare, io posso capire dopo un incidente oppure una situazione strana e normale. Però solitamente hai la paura che gli altri guidi. Perché comunque, cioè tu sai come guidi, solitamente ti affidi alle tue abilità, capisco la paura degli altri, vedere gli altri guidano e fanno qualche casino, dice, quindi è rischio. Invece c'è la paura di guidare quando non si. Hai capito anche di conoscere una donna davanti con l'Italia per questa paura. Io avevo un compagno delle superiori il cui padre voleva insegnarle a guidare, perché tu devi guidare, devi essere autonomo, quindi. Questa non ne voleva che sapere, e quando il padre l'ha portata in una stradina privata a fargli fare scuola guida, questa è partita, è riuscita a partire con la macchina. Poi da lontano ha visto arrivare un'altra macchina e dice che è scesa dalla sua macchina senza mettere freno a mano, senza spegnere la macchina. La macchina continua ad andare e lei si è buttata proprio dalla macchina scappando e non è voluta più salire in macchina. E tuttora, diciamo, oltre 30 anni, no, non sta scappando, però non guida. Si è trasferito in una città dove può girare. Quindi ha concedo la cosa, sì, perché sì. Tra l'altro effettivamente una città grande è una paura abbastanza complicata. Comunque numero 8, e questa penso che sia abbastanza diffusa, courlofobia, ovvero la paura dei clown, specie che ha visto il film It. Grazie Stephen, condividerà. La paura del clown, il clown che è questo, come dire, personaggio che è sempre al limite tra il divertente, l'allegorico e il pauroso, il sinistro, cioè che effettivamente ne ha addirittura paura. Cioè, sì, perché comunque di solito hanno il volto colorato con colori molto accesi, cioè certo. Queste grandi labbra rosse, i capelli rossi, verdi, nasoni magari sproporzionati, scarpe sproporzionate, hanno l'idea magari di qualcosa un po' di, tra virgolette, mostruoso agli occhi di un bambino che, certo, e poi, nelle fattezze strane riconosce magari qualcosa di... Poi c'è sempre il discorso che dietro quel naso, dietro quegli sbuffi, cosa nasconderà? Una pistola, un coltello, un assassino. A me i clown più che paura fanno, ispirano violenza. Cioè tu li vorresti menare a tutti? Sì, non so perché. Vabbè, meglio così. Non andare al circo. No, perché altrimenti denunciano, però a parte questo. Ognuno reagisce poi alla maniera sua. Al numero 9, una paura che viene un po' dall'antichità, tra virgolette, la zeusofobia, la paura degli dèi. Ma anche i cani. Ah sì. Kratos. L'idea comunque del divino, del minaccioso, quest'idea un po' da antica Grecia, ma anche un po' cattolica, se si vuol dire, per avere proprio paura di Dio. Alla fine della religione, razionalmente parlando, ti porta sempre a questo timore riverenziale verso, verso questa figura più in alto di te, che è il Dio, che può essere Zeus, può essere Odino, che può essere il Dio, Allah e via dicendo. Quando questo timore reverenziale diventa estremo, alla fine si passa effettivamente con una paura che qualcosa al di sopra di noi possa fare, possa regolare la nostra vita e magari imputtarci qualcosa di... Ma sarà anche la paura dell'indefinito, dell'ignoto, cioè certo. Queste creature che governano il tutto e il niente. Però certo, poi ci sono personaggi, come diceva il buon Andrea, che invece di bestemmiare vanno dal Dio e lo pigliano schiaffo con lo spadone. Kratos. Non bestemmi, ma la prendo direttamente con con diretto interessato. Fantastico, ma che è un altro modo di reagire, allora. Sì, è come sì. Il discorso dei clown Andrea. Non è reagire in maniera violenta per... Sono un esempio di agnifobia. Sì. Poi fine numero 10, la paura per eccellenza è la fobofobia, ovvero la paura di aver paura. Grazie. Qua si è un po' diffusa, per capire, è chiaro che nessuno è felice di aver paura, però effettivamente è complicato. Cioè, aver paura è chiaro che non è un piacere di nessuno, però anche paura di aver paura penso che porti a una chiusura da un punto di vista mentale che è difficile da gestire. Sì, sicuramente il fatto di dover pensare a qualsiasi cosa e dire non, no, mi blocco perché ho paura che quella cosa poi diventi una paura, cioè non puoi fare niente. Non finisci per non dire più. Se non apro la porta perché ho paura della paura di... che la maniglia resti. Una volta mi è capitato, cioè una volta mi è capitato, è tipo, avete presente le creepypasta, quelle storielle di piccoline horror che girano, le storielle che girano sui forum, su... io ho trovato un sito di queste creepypasta e avevo paura di entrarci perché non volevo avere paura delle creepypasta perché mi piaceva leggerle. Ma sono affascinanti alcune, sono bellissime. Però ho la paura della paura. Fobofobo. No, creepypasto. Creepypasto. Bisogna trovare il nome latino, cioè come si traduce in latino creepypasta. Ve lo scriveremo sul sito appena lo scopriamo. Non solo sei portatore, cioè anche ne crei di nuove, di fobie. Minchia e minchia. Vedi tu. Incredibile questa cosa. Sto arricchendo il mondo con la mia esistenza. Le cose sbagliate magari, però vabbè. Le creepypasta, vero, vero. Sarà anche questa una fobia futura, fobia delle creepypasta. Ma ragazzi, ora andiamo al gelato e vogliamo menzionare il rollè dolce che ho fatto questa sera e che ha avuto un certo successo. Ottimo, ottimo. Ho sperimentato la versione dolce alla cioccolata del mio rollè e ha avuto un certo seguito anche presso gli ospiti, insomma. Ne sono contento, quando ne azzecco una bisogna sempre sottolineare i miei successi. In realtà non è un rollè al cioccolato, ma cioccolato con rollè. Vabbè, perché però era buonissimo. Vedi. Bisogna rifarlo tutte le sere. Yes, yes. Tutte le sere. E adesso passiamo all'angolo della musica, allo spazio dei Gizet Gaga con Becky. Here comes Jay. ragazzi, era la cena dei regini, qui abbiamo finito, ci riprendiamo le nostre cose, ce ne torniamo a casa e questa settimana ricordo il LAN party che terremo qua a Laos. Per tutte le informazioni, contattarci e ascoltare le puntate precedenti della cena dei regini, visitate il sito www.tibac.it, dove trovate anche il collegamento alla cena dei regini per avere tutte le informazioni sulla trasmissione. Io un saluto dal Bac e dai ragazzi. Ciao, che ci hanno fatto compagnia questa sera. Stasera, diciamolo, in formazione ridotta per svariati motivi, però ce la siamo cavata egregiamente. Pochi ma buoni. Yes. E ciao.